tic-tac, il tempo scorre, fa tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ciao a tutti! Mi chiamo Margherita, la coniglietta bianca del Pionta. Sarò la vostra guida e insieme esploreremo il parco. Qui è possibile fare tante cose divertenti, come correre, rotolarsi sul prato, fare picnic, incontrare gli amici o andare in bici. Forza! Andiamo! Percorriamo il viale alberato davanti a noi, chiamato Viale dei Ricercatori. Il parco del Pionta è antico e molto grande, ma io e i miei amici siamo riusciti a scoprire tutti i suoi segreti, a cominciare da questo. Una volta gli abitanti del parco erano stati colpiti dall'incantesimo dell'esclusione e da quel momento iniziarono a fare cose a orari insoliti. Mangiavano quando si doveva dormire, facevano merenda alle 8 di mattina e si lavavano la faccia a mezzogiorno. Questo non piaceva alle altre persone della città, che non vedevano di buon occhio queste stranezze. Volete sapere come ci siamo liberati di questo sortilegio? Venite con me! Eccoci arrivati! Se alzate lo sguardo, potrete vedere in cima all'edificio un grande orologio. L'incantesimo dell'esclusione faceva roteare velocissime le sue lancette e impediva a chi abitava nel parco di seguire lo stesso orario delle altre persone. Che pasticcio! Un giorno gli animali del parco decisero di fermare le lancette dell'orologio. Nessuno aveva più un orario preciso e gli abitanti della città accolsero nuovamente chi abitava nel parco. Proseguiamo la nostra avventura verso un altro posto magico. Facciamo un salto verso sinistra e seguiamo la strada sterrata. Fate un grande respiro e prepariamoci ad affrontare la salita che ci porterà verso la nostra prossima tappa, in cui potremo fare anche un piccolo spuntino. Ho proprio voglia di carote! Siamo arrivati! Come vi raccontavo, tanto tempo fa gli abitanti del parco non andavano d'accordo con gli abitanti della città. Fortunatamente le cose adesso sono cambiate. Fermare le lancette ha portato alla sconfitta dell'incantesimo dell'esclusione, liberando il potere dell'inclusione. Se non sapete il significato di questa parola, posso dirvelo io. Inclusione è quando tutti hanno la possibilità di vivere insieme liberamente, senza ostacoli o difficoltà. Un luogo dove avviene questa magia è il Bar Duomo Vecchio. Infatti oggi, in questo bar, lavorano persone che insieme agli abitanti della città hanno trovato, nel Pionta, una seconda casa. Siete curiosi di sapere dove abitano? Proseguiamo insieme l'avventura continuando dritto! Eccola qui! Alla nostra destra c'è la loro grande casa! Oh, guardate! Dall'edificio di fronte a noi sta uscendo la mia amica Luna, la gattina! Ciao Luna! Io e i miei amici stiamo visitando il Parco del Pionta. Puoi aiutarmi a mostrare la nostra prossima tappa? Miau a tutti! Molto volentieri, sai quanto amo la storia. Ho appena visitato l'oratorio di Santo Stefano, un'antica chiesa ricca di ricordi, e proprio adesso mi stavo recando verso un altro luogo magico. Volete venire con me? Certo! Andiamo! Pronti a usare la lente di ingrandimento? Perché siamo arrivati agli scavi archeologici. Un tempo erano le basi della chiesa di Santo Stefano e Santa Maria, conosciuta anche come Duomo Vecchio. Queste rovine sono molto antiche, anche se non le conosciamo da tanto. Malgrado sembrino soltanto dei sassi, sono ricche di storia ed un tempo venivano frequentate dai cittadini di Arezzo. Non sapevo tutte queste cose! Grazie, Luna! Conosci altri luoghi segreti del parco? Sì, certo. Venite con me. Saltelliamo lungo la strada sterrata che circonda il boschetto. Guardatevi intorno, siamo immersi nel verde. Infatti, grazie alla magia dell'inclusione, anche gli alberi e i fiori sono diventati nostri amici. Ciao amici! Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Adesso penso che farò una piccola pausa. Vi auguro un buon proseguimento. Miau! Forza! È il momento di continuare la nostra avventura. Proseguendo dritto, troveremo un grande spazio dove con i miei amici faccio spesso tanti picnic. Consiglio anche a voi di farne. È molto divertente. Infatti, se avete voglia di riposarvi, seguendo il sentiero a sinistra, potremmo raggiungere il roccolo, il punto più alto di tutto il parco. Ma adesso non è il momento di fermarci. Continuiamo il nostro viaggio. Saltelliamo ancora un po' più avanti da questa parte. Sentite questa musica? Da dove proviene? Alba, guarda chi sta arrivando. Chip. Ciao Margherita, che fai da queste parti? Chi sono i tuoi nuovi amici? Ciao Alba, ciao Aria! Sto accompagnando questi esploratori alla scoperta di questo bellissimo parco. Sapete da dove arriva questa melodia? Proviene dalla scuola di musica qui di fronte, Chip. Dove gli abitanti della città si riuniscono per dare spazio alla creatività e alle proprie passioni, Chip. Infatti, proprio ora stavamo scrivendo una nuova canzone dedicata al parco. La volete ascoltare? Molto volentieri! Nel parco del Pionta un incantesimo si celava, un sortilegio d'esclusione che tutto condizionava. Le lancette dell'orologio giravano senza sosta, portando tutti a seguire la direzione opposta. Mangiavano di notte, facevano merenda all'alba, rendendo la città un po' meno calma. Ma un giorno gli animali, coraggiosi e audaci, decisero di fermare quelle lancette vivaci. Roteando senza fine, incantate in eterno, riuscirono a spezzare quel sortilegio interno. E com'è successo? Ora te lo dico io. Gli animali del parco si riunirono con amore e insieme fermarono quelle lancette col batticuore. Ora nel parco del Pionta regna l'armonia. Gli amici giocano e ridono ogni giorno e in ogni via. Tutti quanti insieme a cantare, uniti nell'inclusione, senza nessuna barriera da superare. E poi? Continua, continua! I coniglietti corrono felici nel prato, i gatti esplorano di notte il luogo da loro amato, gli uccellini cantano all'unisono, felici in volo, salutando tutti gli scoiattoli tra i rami del querciolo. L'incantesimo dell'esclusione è stato sconfitto e nell'amore e nell'amicizia non c'è più conflitto. Perché quando siamo uniti, niente può ostacolarci e la felicità e l'armonia possono accompagnarci. Grazie per averci fatto ascoltare questa bellissima canzone. Sembra piaciuta molto anche ai nostri amici esploratori. Ora dobbiamo proseguire il nostro viaggio, ma speriamo di rivederci presto. Ciao Alba, ciao Aria. Ciao amici Chip. Dai, andiamo. Eccoci, siamo arrivati a Villa Chianini. Ah, che male! Scusa, mi è caduta una ghianda. Ah, ma sei tu, Margherita. Ho saputo che hai portato degli esploratori nel parco. Sono loro? Ciao, Olivia. Si è diffusa già la voce? Sì, sono proprio loro. Finalmente, che piacere! Io sono la scoiattolina ghitta di ghiande che abita qui. Volete che vi racconti qualcosa che so solo io riguardo alla villa? Certo, ci piacerebbe molto! Uno dei segreti più grandi è che al suo interno nascondo spesso le mie scorte di ghiande. L'edificio è molto grande. Una volta, infatti, ci vivevano molte persone. Oggi però Villa Chianini è chiusa e farà casa soltanto a noi animaletti del bosco. Venderei tutte le mie ghiande per rivedere quel salone bellissimo pieno di persone. Squeak! Sareste curiosi di entrare a dare uno sguardo? Purtroppo noi non siamo ancora riusciti a trovare la chiave per permettere l'ingresso ai visitatori della città. Sarebbe bello se un giorno tutti potessero di nuovo visitarla. Grazie Olivia! Speriamo che questo sogno si possa realizzare presto! La nostra ultima tappa è forse la più divertente, anche se, a malincuore, dobbiamo salutarci. Guardatevi intorno. Non troppo lontano da qui, il parco giochi aspetta solo voi! Partecipando oggi a questa avventura, siete stati di grande aiuto per mantenere viva la magia dell'inclusione. Quindi, tornate a trovarci per fare in modo che questo incantesimo non abbandoni il parco. Sarete sempre benvenuti. A presto! Vi siete divertiti? Bene, adesso rispondiamo a qualche domanda per scoprire qualcosa in più sull'avventura di oggi. Pronti? Iniziamo! Quanti amici avete incontrato oggi? Avete incontrato 5 amici. La coniglietta Margherita, Luna la gattina, i due uccellini Alba e Aria e infine, ma non meno importante, Olivia la scoiattolina. Come mai gli abitanti del parco decisero di fermare le lancette dell'orologio? A causa della magia dell'esclusione, gli abitanti del parco seguivano un orario diverso dalle altre persone. Fermando le lancette, gli animali riuscirono a riportare l'ordine nel parco. E voi invece, cosa avreste fatto al posto degli animali per sconfiggere l'incantesimo dell'esclusione? Abbiamo parlato anche di inclusione. Vi ricordate cosa significa questa parola? Inclusione è quando tutti hanno la possibilità di vivere insieme liberamente, senza ostacoli o difficoltà. Vi ricordate qual è la passione di Luna la gattina? Luna ama la storia e per questo è la più saggia del parco. Una curiosità che solo noi animaletti del parco sappiamo è che si chiama così perché ama fare escursioni di notte. Dove abbiamo incontrato i due usignoli, Alba e Aria? Un piccolo indizio, amano cantare! Le abbiamo incontrate alla scuola di musica! Qual è il segreto più grande che nasconde Villa Chianini? È stata Olivia a svelarlo, infatti lei nasconde tutte le sue ghiande all'interno del salone principale. Una curiosità è che ama condire le sue ghiande con l'olio degli ulivi del parco. Chi vi ha accompagnato durante tutta l'avventura? La vostra guida è stata la coniglietta Margherita. Il suo pelo bianco ricorda molto i petali delle margherite presenti nel parco, da cui deriva il suo nome. Insieme a Margherita, quali luoghi avete esplorato? Il viale dei ricercatori, la palazzina dell'orologio, il bar d'uomo vecchio, l'oratorio di Santo Stefano, gli scavi archeologici, la scuola di musica, Villa Chianini e il parco giochi. Qual è stata la vostra tappa preferita? Qualunque sia la vostra risposta, noi ci auguriamo che vi sia piaciuta tutta la nostra avventura. Noi ci siamo divertite molto! Vieni con noi. scoprirai, in pionta scoprirai. Tic tac, il tempo scorre fa, tic tac, tic tac, tic tac.